Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati ha come protagonista il mare e due uomini che si sono incontrati e misurati grazie ad esso, comprendendo così meglio il loro destino, scegliendo di viverlo fino in fondo, spingendo al massimo le loro possibilità fisiche e psichiche. 14 novembre 2005, quasi le 8 di sera. In mare aperto a 430 miglia a sud-est di Dakar, Senegal, è già quasi notte. Nella cabina semiallagata del trimarano fa un caldo pazzesco, ci sono 30 gradi fissi da parecchie ore. L'acqua continua a colare dai due oblò esterni. I due uomini all'interno del piccolo abitacolo sono stanchi, bagnati fino alle ossa da quasi 13 ore. Dopo aver tentato di immobilizzare l'albero spezzato in tre punti per non farlo sbattere contro lo scafo, massacrando la barca di buchi, hanno dovuto desistere. L'impossibilità di fare qualcosa li getta in uno stato di sconforto totale. Ormai possono solo aspettare che arrivino dei soccorsi a tirarli fuori di lì. Improvvisamente sentono avvicinarsi una nave, una di quelle allertate dagli SOS lanciati dalle boe di emergenza e dalle chiamate fatte all'organizzazione della regata con il telefono satellitare. Nel giro di poco tempo la manovra di avvicinamento viene completata e i due navigatori si ritrovano a bordo della petroliera russa Cape Bari, alla volta del Golfo del Messico, dove arriveranno dopo 10 giorni. I due uomini perdono così la possibilità di continuare l'importante regata intorno al mondo che stavano compiendo, la Transat Jacques Vabre. E per gente che ha scelto come mestiere quello di vivere per il mare e di misurarsi con i più importanti navigatori del mondo, non è cosa da poco. I due protagonisti di oggi, che si ritrovano improvvisamente naufraghi, hanno legato i loro destini l'uno all'altro, anche nella disavventura. Un legame che ha radici profonde. Per scoprire queste radici dobbiamo salire su un'altra barca dal nome non certamente romantico, CSERB. È lo scafo del padre di uno dei nostri protagonisti, ma in un certo qual modo è anche il padre putativo del secondo. È quest'uomo che in qualche modo è il motore iniziale di tutta questa storia. Il proprietario della barca si chiama Franco Malingri di Bagnolo, ingegnere di professione e aristocratico di nascita. Una famiglia piemontese, il cui castello, nel paese d'origine di Bagnolo, domina le colline fra Saluzzo e Pinerolo, nella provincia di Cuneo. Luoghi che di esotico hanno ben poco, ma sono pur sempre le colline che hanno ispirato Pavese, che hanno dato i natali a Camillo Benso di Cavour, a Silvio Pellico. Franco Malingri ha il gusto dell'avventura, il desiderio di conoscere posti diversi, lontani. Negli anni 50 si unisce a un viaggio di esplorazione in Africa orientale e risale il Nilo e il Congo in gommone. Un viaggio indimenticabile, ma difficilmente ripetibile, come racconta lui stesso. Ero ingegnere, avevo una ditta mia, ero abbastanza avventuroso, mi piaceva andare in montagna, andavo in giro per i fiumi in canoa, avevo fatto anche una traversata dell'Africa in fuoribordo. Sposandomi non era più possibile fare queste cose. Quando conosce la futura moglie Fausta è necessario fare delle scelte a cui Franco non intende sottrarsi. Quando io ho conosciuto Franco c'era una spedizione che andava nel Rio degli Amazzoni e gli avevano chiesto di partecipare e gli ho detto buon viaggio. E Franco ha preso come un grande insulto e ha rinunciato spontaneamente. La rinuncia di Franco non è stata certamente spontanea, ma le rinunce fatte per amore hanno più il sapore di una conquista che di una perdita e soprattutto possono trasformarsi in opportunità. E così ho pensato che andare in barca era il modo per portarci dietro la famiglia. Per lo spirito avventuroso, ma anche preciso e fattivo di Franco Malingri, la vela si rivela ben presto la soluzione migliore. Insieme al fratello Dionigi, detto Doi, Franco Malingri inizia ad andare in barca a vela, a capirne i meccanismi, e inizia a interessarsi del lato tecnico, fino ad arrivare alla progettazione di un timone a vento, oggi fra i più utilizzati. Non sono un contemplativo, mi piace fare, pensare e poi fare. Così la vela diventa soprattutto un modo nuovo di ripensare alla vita che si vuole vivere. Con un gruppo di amici, Franco Malingri fonda una sorta di società dell'anno sabbatico, con l'idea che un giorno o l'altro si sarebbe abbandonato tutto per fare il giro intorno al mondo in barca a vela. È in questo ambiente fecondo e sportivo che cresce il primo protagonista della nostra storia. Figlio primogenito di Franco e Fausta, Vittorio Enrico Gerolamo Malingri di Bagnolo. Vittorio Enrico Gerolamo Malingri di Bagnolo nasce in pieno centro a Milano il 19 maggio 1961. Il suo destino sembra quello di tutti i fighetti, come li definisce lui stesso, di buona famiglia milanese. Una vita senza pensieri, agiata. Una vita già scritta fra le strade eleganti del quartiere di Brera. Anche qui può arrivare l'odore del mare a prendermi. Vittorio Malingri potrebbe proprio finire come i tipici rampolli di buona famiglia, ma le cose vanno diversamente. A 7 anni sale in barca e a poco per lui inizia l'amore per la vela. All'inizio si tratta solo di vacanze in Grecia o in Turchia, del divertimento di stare in barca con gli amici, tuffarsi nel mare e pescare. Ma a poco è proprio la passione per la vela che prende il sopravvento. A 12 anni Vittorio aiuta il padre e lo zio Doi ad allestire il 15 metri CS e RB, la barca con cui i due fratelli partecipano alla prima edizione della Whitbread, la celebre regata intorno al mondo, per cui partono l'8 settembre del 1973 da Portsmouth. Round the world racing has its origins in the great clipper ships of the last century. Le regate intorno al mondo trovano la loro origine nei grandi piroscafi commerciali, che alla fine dell'Ottocento sfidavano qualsiasi tempo e mare per raggiungere rapidamente i porti dove ottenere i prezzi di carico migliori. Le loro gesta divennero leggenda e hanno ispirato quella che oggi è considerata una delle più famose regate intorno al mondo, la Whitbread. Sono 17 le barche venute da tutto il mondo che in quel giorno si trovano alla linea di partenza della città inglese. Le tappe sono Cape Town, Sydney, Rio de Janeiro e poi tutta una tirata per tornare fino a Portsmouth. I Malingri giungono ottavi. Di ritorno in Italia l'esaltazione è grande. La vela appare ai Malingri non solo come la soluzione migliore per ritrovare il gusto dell'avventura, ma soprattutto per creare e mantenere rapporti con la famiglia. Ed è seguendo questa riflessione che Franco Malingri ha un'idea. L'idea è quella di istituire una piccola scuola di vela direttamente a casa Malingri, coinvolgendo soprattutto gli amici dei tre figli, Vittorio, Enrico e Francesco. È stato molto bravo mio padre perché ha coinvolto i nostri amici. No, per cui per noi era un punto di orgoglio essere lì e far vedere appunto che noi eravamo capaci, tirarli dentro. Cioè, ha fatto proprio una cosa secondo me intorno a noi alla fine. Nella comoda casa dei Malingri ogni sabato sera si riunisce un bel gruppetto di ragazzi. Fra una coca e un po' di pizza il papà Franco srotola le carte nautiche, insegna a fare la rotta, a usare il sestante e la bussola. I ragazzi hanno tutti fra i 13 e i 17 anni. Ma ce n'è uno più piccolo di tutti, il figlio minore di una cara amica della madre di Vittorio. All'epoca delle lezioni a casa Malingri, il piccolo Giovanni, questo è il suo nome, ha solo 11 anni, ma già dimostra una grande predisposizione verso la vela. Come si trasmette la passione per il mare? Ce lo racconta sempre Vittorio. Io sono anche uno tagliato probabilmente per quella vita lì, la natura... il mare, io ho cominciato a sognare sui libri di Salgari, avventure, tutte queste robe qua come tanti di noi e poi siccome avevo una famiglia così ho detto ma perché, non, perché no, cioè perché non si può fare, cioè non c'erano i limiti, è quello che lui ci ha insegnato a noi, Franco. Quello che accade al giovane Vittorio in qualche modo significa anche la sua salvezza. Perché Vittorio ha 16 anni, nel 1977, a Milano. È un misto fra un normale ragazzetto con il motorino e le prime fidanzatine, con la sua compagnia di amici giusti, e una specie di delinquentello che passa le sue ore libere nelle officine di Afori, la tuta sporca di grasso, dove impara ad aggiustare i motori, ad assemblare pezzi di barche. La sera poi, all'insaputa dei genitori, butta giù la corda da camera sua per andare a ballare al mitico Odissea 2001, una delle prime discoteche di Milano. Oh, Milano si balla all'Odissea 2001 e si dimentica per una notte la tensione sociale che imperversa in quegli anni. Anche Milano, come tutta l'Italia, è una città pericolosa. Siamo nel pieno degli anni di piombo. Il movimento del 77 è nella sua fase più cruenta. A Milano, come a Roma e a Bologna, sono ormai quotidiani gli scontri fra i ragazzi dei movimenti extraparlamentari e i poliziotti, scontri che culminano con l'omicidio del poliziotto Antonio Custra, il 14 maggio del 1977. Forse perché per le strade si arriva a sparare e a morire, forse perché questo figlio maggiore appare troppo irrequieto, Franco e Fausta Malingri decidono di attuare quel piano accarezzato per anni, tanto da sembrare quasi un sogno già lontano. Il giro del mondo in barca a vela. Nel 1978 Franco e Fausta Malingri, con tre figli dai 17 ai 12 anni, partono dalla Liguria sulla loro barca, lo stesso CS e RB con cui parteciparono alla Whitbread, per iniziare un'avventura che sarebbe durata quasi 2 anni, il viaggio intorno al mondo. Può sembrare strano, ma all'inizio non è che l'idea venga accettata molto volentieri dai ragazzi, soprattutto da Vittorio. Comincia ad avere la tua indipendenza e dicevo, ragazzi, adesso cosa succede? Ci mettete tutti in una barca a vela e stiamo lì a guardarci in faccia, sai, il rapporto con i cosiddetti tra virgolette vecchi e quell'età lì è ottimo, però insomma le vite sono estremamente separate, nel senso che tu entri in casa, mangi, esci. L'idea del papà di Vittorio è anche quella di filmare la vita a bordo con una piccola cinepresa Super 8 per realizzare in seguito una trasmissione per la televisione. Ne ascoltiamo qualche estratto. Ecco Fausta, mia moglie. In barca è sempre occupata in interminabili lavori a maglia. Sì, io sono molto attiva, mi piace molto lavorare a maglia. In barca finalmente ho tempo di fare quello che desidero. Per non perdersi con le persone care rimaste a Milano, l'idea è che durante l'arco dei 2 anni gli amici del corso di vela tenuto in casa Malingri avrebbero potuto raggiungere la famiglia nei vari luoghi del mondo e viaggiare per un pezzetto insieme, cosa che poi si verifica puntualmente. Solo uno dei frequentatori del corso non può raggiungerli. Quel ragazzino di 11 anni, troppo giovane per ricevere il permesso di lanciarsi in una crociera transoceanica. Il piccolo Giovanni rimane a Milano, unico sfogo andare in barca durante i giorni liberi da scuola. E nonostante i suoi amici siano lontano, è come se questa attività creasse una sorta di legame con quella che per lui è quasi una famiglia adottiva, grazie alla condivisione di una passione totale. Vittorio invece sta facendo tesoro dell'esperienza e si sta trasformando in un vero e proprio marinaio. Dalla partenza, dopo varie tappe, Vittorio e la sua famiglia attraversano il canale di Panama e poi giungono in Polinesia, dove si fermano per qualche mese. La vita in Polinesia è meravigliosa. Le giornate trascorrono facendo amicizia con la gente del luogo, godendo dell'incredibile bellezza della natura, pescando. Ma se fuori dalla barca i ragazzi sono lasciati liberi di fare tutte le esperienze che desiderano, in barca l'organizzazione è ferrea e ognuno si dà da fare secondo le sue possibilità. Noi in barca gli facevamo fare tutto. Si impara a far cucina, si fa di tutto. La cucina era un grosso problema perché io non ero molto preparata. Forse è per questo che quando il padre viene chiamato in Russia per seguire un grosso lavoro, si decide che i ragazzi sono comunque in grado di cavarsela da soli e di proseguire il viaggio senza l'aiuto dei grandi. L'imbarcazione ha appena lasciato l'isola di Bali. La meta finale sono le isole Seychelles, a più di 4.000 miglia di distanza. Sulla barca l'attività è a tratti frenetica. Issare e abbassare vele, regolare scotte e drizze, timonare con attenzione in un mare vasto come l'Oceano Indiano. Ma a tratti l'atmosfera è goliardica, di puro divertimento, come ben si conviene a un equipaggio di 7 ragazzi dai 15 ai 20 anni. Non ci sono adulti su questa barca, non al momento almeno. Il capitano designato è Vittorio, forse il più esperto di tutto l'equipaggio. La tappa viene percorsa a tempo di record e quando i ragazzi raggiungono le coste delle Seychelles non hanno soltanto portato a compimento un'impresa, ma anche la loro educazione. Una volta giunti in Africa, la famiglia Malingri si riunisce, ma sa di essere ormai sulla via di casa. Rimane da attraversare il canale di Suez, il Mediterraneo, e finalmente giungere in porto in Liguria. Ad attenderli dopo 2 anni di assenza ci sono tutti gli amici più cari, qualche giornalista e qualche curioso. Fra gli amici c'è anche Giovanni, che ormai ha quasi 14 anni e una passione irrefrenabile per il mare che lo sta cambiando. Anche i tre giovani malingri sono molto cambiati. Sono diventati più grandi, più adulti. Al loro ritorno hanno fatto 3 anni in uno e sono stati promossi. Sono stati giudicati non particolarmente eruditi, ma molto più svegli dei loro compagni e molto più maturi. Quindi da quel punto di vista ha funzionato. Ma in Vittorio è scattato anche qualcosa di molto diverso e radicale. Come se per lui il viaggio non fosse finito, ma al contrario fosse appena iniziato. Siamo partiti da quel giro del mondo lì, del 1978, io dico sempre, io non sono ancora tornato. Dall'altra parte del mondo, cioè da Tonga, da quando, dall'opposto all'Italia, ho cominciato a capire che tornavamo a casa, ho cominciato subito a iniziarmi a organizzarmi per riandare via, perché ho capito che quella parte lì stava finendo e avevo anche capito che la mia vita era quella lì. In Italia Vittorio inizia a progettare barche, ma è proprio il paese che gli sta stretto e quindi decide di partire di nuovo, questa volta per andare a Cuba, a Cayo Largo del Sur, dove progetta una base velica in cui offrire ai turisti un servizio charter. È il 1983, Vittorio ha solo 22 anni e resta ai Caraibi per 4 anni. Il lavoro a Cayo Largo è impegnativo e Vittorio chiede aiuto agli amici. Ma Cuba non è dietro l'angolo, non tutti rispondono all'appello. Qualcuno si succede negli anni, fino a quando non arriva nel 1986 quel piccolo Giovanni che ormai ha 20 anni e ha tanta voglia di misurarsi col mare, di dare una mano concreta all'amico Vittorio. In questi anni Giovanni non è stato con le mani in mano. Ha continuato ad andare in barca, facendo tesoro degli insegnamenti di papà Malingri. Ha voglia di andare per mare e forse, perché no, di farsi un nome nelle regatine a cui partecipa i weekend. Già si vede annunciare il suo nome, un nome che suona bene. Giovanni. Giovanni Soldini. Giovanni Soldini. Vittorio e Giovanni si conoscono da tanto, dagli anni del corso di vela. Ma è qui, a Cayo Largo del Sur, che per la prima volta capiscono che quella sarà la loro vita e il loro futuro. Por hacerme popular, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, oh. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo navigando intorno alla vita di Vittorio Malingri e di Giovanni Soldini, i due velisti più famosi d'Italia che, grazie a un corso frequentato insieme da ragazzi, a una crociera intorno al mondo e a un lavoro a Cuba, comprendono che la passione per il mare può diventare la vita stessa. È una giornata radiosa. La luce dorata del pomeriggio sembra carica non solo di una pastosità che solo ai Caraibi si può trovare, ma soprattutto di promesse, di aspettative. Il gruppetto di turisti stretti nelle due lunghe piroghe affittate dai giovani organizzatori italiani del tour marino sono affascinati da ciò che vedono dal fondo in plastica delle barche. Il mare blu è solcato da pesci di ogni genere, che guizzano veloci fra le mille pagliuzze dorate che si riflettono fra le onde. Le vele bianche delle imbarcazioni sono tese, piene di vento. Le piroghe in stile polinesiano sono state disegnate da Vittorio Malingri sui ricordi delle imbarcazioni incontrate nelle isole Tonga ai tempi del suo viaggio intorno al mondo con la famiglia. Ma a lui si devono delle ottime innovazioni, come il fondo trasparente per permettere ai turisti di guardare la fauna marina. Del resto Vittorio a Cuba ci lavora, gestendo una piccola base turistica che offre l'emozione del mare e della vela a piccoli gruppi di turisti selezionati. Ma da quando il suo amico Giovanni lo ha raggiunto per lavorare con lui, il lavoro ha preso una piega diversa. Perché tutti i pomeriggi, quando i due ragazzi al timone di due differenti piroghe, dal mare aperto, rivolgono la prua verso la costa, succede una cosa emozionante. Nonostante i turisti a bordo, i due amici si sentono come se fossero soli, antagonisti ognuno nella sua barca, e stanno spingendo al massimo. Si misurano, si fronteggiano, si combattono fino all'ultimo miglio che li separa dalla destinazione. Il rito si compie ogni giorno. Ogni giorno, senza alcuna ragione se non il divertimento della competizione e il piacere di battersi l'un con l'altro. Vittorio Malingri e Giovanni Soldini si sfidano in centinaia di regate immaginarie ogni giorno, provando l'ebbrezza della vittoria. Senza rendersene conto, però, questo rito quotidiano sta inesorabilmente cambiando il loro futuro, indicandogli una strada che cambierà le loro vite. Quello che Vittorio riesce a fare quell'anno trascorso con Giovanni a Caio Largo è in un certo qual modo portare a termine l'educazione velica e di vita iniziata tanti anni prima con i corsi di vela in Casa Malingri. Quello che Vittorio aggiunge, forte dell'esperienza maturata durante il giro del mondo con i genitori, è il concetto che non ci sono limiti a quello che si può fare della propria vita, alla vastità di cose che si possono realizzare a patto che ci sia impegno, responsabilità e onestà nei confronti delle proprie scelte. La vela dunque non è più solo divertimento, passatempo o una fonte di guadagno per un'estate di turismo. Per entrambi la vela diventa un mestiere dove lo stare in barca, la competizione, l'agonismo, la gara sono la ragione di esistere. Quando l'esperienza dei Caraibi si conclude, Vittoria e Giovanni tornano in Italia con un unico pensiero: trovare una barca e ritornare per mare per diventare navigatori agonistici. D'altronde, scegliere strade alternative fa un po' parte della filosofia della famiglia Soldini. Anche i due fratelli di Giovanni hanno scelto svolte molto creative alla loro esistenza. Emanuele è direttore di una scuola di design, mentre Silvio, sin da giovane, ha in testa solo il cinema, tanto da trasferirsi a 21 anni a New York, lasciando la facoltà di scienze politiche per studiare cinema alla New York University. Col tempo è diventato uno dei registi italiani più interessanti del panorama italiano, con capolavori come Pane e Tulipani, Agata e la Tempesta e l'attuale Cosa voglio di più. Per Giovanni Soldini è invece l'incontro con Vittorio Malingri che trasforma questo talento creativo in una professione. Da quel momento si lancia nel mondo della vela con grande entusiasmo e tenacia. Tornato da Cuba, entra subito nel circuito delle regate e iniziano i primi successi. Nel 1988 si classifica primo in ben tre regate importanti, la Giraglia, la 200x2 e la Sanremo Le Lavandue. L'anno dopo è di nuovo primo classificato nella regata transoceanica che dalle Canarie arriva all'isola di Santa Lucia, nei Caraibi. Vittorio intanto progetta la sua prima barca, il Moana 33, la prima di una lunga serie che avrà sempre lo stesso nome e partecipa a tante altre regate fino ad arrivare al 1992, anno in cui con un'altra barca progettata e costruita da solo, il Moana 60, partecipa alla durissima regata Vendée Globe, la regata intorno al mondo che si compie in solitaria, senza altro equipaggio che il capitano e senza alcuna assistenza per tutta la sua durata. La seconda edizione del Giro del Mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza, vuol dire che partivamo dalla Francia, scendevamo l'Oceano Atlantico e poi giravamo il mondo da ovest verso est, passando sotto l'Africa, cioè Cape Lewin, sotto la Nuova Zelanda e sotto il Capo Horn delle Americhe, tornando in Francia. Io purtroppo lì mi sono dovuto ritirare vicino a Capo Horn perché ho rotto il timone. Ma non è l'unica avventura che Vittorio vive durante questa traversata. Prima della rottura del timone, succede qualcosa di ben più terribile. È una giornata grigia, con 20-30 nodi di vento di poppa. Vittorio deve ammainare la randa, la grande vela triangolare tesa fra l'albero e il boma, perché è in avaria. Per portare a termine l'operazione, si trova a cavalcioni sul boma, che oscilla violentemente. Improvvisamente, il movimento disarciona Vittorio, che finisce in mare con tutta la vela. Per fortuna, il velista stringe ancora in mano una cima attaccata all'albero e con un braccio riesce a issarsi parzialmente sulla randa e a planare sull'acqua fino a quando, sfruttando un momento in cui lo scafo si inclina, riesce a tirarsi di nuovo in barca. È un momento tremendo. Da solo, in pieno mare aperto, se non fosse riuscito ad aggrapparsi alla corda, Vittorio sarebbe caduto in mare aperto senza alcuna possibilità di raggiungere la barca o di essere ritrovato. Appena tornato a bordo, Malingri cade in ginocchio e ringrazia il cielo. Is the deepest. Non c'è rischio, non c'è disastro che ormai allontani i due amici dalla decisione presa a Cuba. Anzi, ogni imprevisto, ogni abbandono di regata non fa altro che rafforzare la voglia di tornare subito al cavalcare le onde. E non è sempre un lavoro facile. Andare per mare è un mestiere duro, innanzitutto perché è molto costoso, non solo perché servono barche sempre più impegnative a livello tecnologico, ma soprattutto perché per affrontare tutta l'organizzazione servono sponsor e partner generosi. Non è un lavoro facile, anche perché il più grande antagonista è la natura e l'immensa potenza che essa può scatenare da un momento all'altro, come racconta Giovanni Soldini. Perché quando poi con la natura ti scontri in maniera diretta, cioè ti scontri, te la vivi sulla pelle e ti rendi conto che la natura è molto più grossa, potente, complessa di quello che ti immagini quando invece vivi una vita magari in città facendo il tuo lavoro normale. Io penso che uno dei grossi problemi della civiltà moderna è proprio questo: l'uomo pensa di controllare tutto, di avere, siccome va sulla luna, allora si dimentica che in realtà la natura, quando vuole, muove un dito, dà una scrollatina e qua succedono dei disastri. Soldini sa molto bene quello che dice, perché gli è capitato spesso di dover subire le conseguenze della natura arrabbiata, come scopriremo tra poco a Destini Incrociati. Think I love you. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo partiti con Giovanni Soldini e Vittorio Malingri per un viaggio intorno al mondo a vela che ancora non ci ha riportato in porto. Perché, come sanno bene i nostri protagonisti, il percorso per diventare i migliori velisti italiani prevede di tutto. Dalle avarie e dai naufragi alle soddisfazioni di record e premi vinti da entrambi nell'arco di quasi 30 anni di attività. E ci vuole tempo per compiere questo viaggio. Un tempo lungo come una vita. Nel 1999 Giovanni Soldini è già famoso. A soli 33 anni ha già vinto tantissimo. È ben voluto dai media e dagli sponsor. Quando parte per la regata Around Alone, un giro del mondo in solitaria, lo fa con l'intenzione di vincere. In questo momento, infatti, è nelle prime tre posizioni. Eppure sta abbandonando la rotta per dirigersi verso la barca rovesciata della sua grande amica Isabelle Autissier, famosa velista francese. La donna si trova in pieno Pacifico meridionale, lontana da ogni altro possibile intervento di salvataggio. C'è un macello, c'è Isabel che ha chiamato i soccorsi e io sto dirigendomi lì e siamo proprio davanti a sta cavolo di depressione. Porca miseria. E lei e Samuel sono andati molto a sud e erano veramente posizionati male. Posizione, però bello tranquillo. Adesso il problema è trovarla, che non è mica uno scherzo, cacchio, trovare una barca ribaltata in mezzo al mare. Per trovare l'amica, Soldini ha dovuto setacciare ben 5 miglia quadrate e viaggiare tutta una notte con il vento di bolina a 45 nodi, onde alte 12 metri e scarsa visibilità. Quando fradicio e gelato, alle prime ore del mattino, raggiunge l'Autissier in balia delle onde su un canotto da più di 24 ore, la gioia è incontenibile. Del resto, con Isabelle, Giovanni ha fatto molte regate. La loro è una solida amicizia nata in mare. E le amicizie nate così sono le più profonde, le più sincere. Non si possono abbandonare in mezzo alle difficoltà. Il salvataggio ha un'eco straordinaria su tutti i giornali e le televisioni mondiali, aggiungendo, se possibile, ancora più notorietà alla fama di Soldini. L'esperienza della navigazione in solitaria può sembrare una follia, ma sia Vittorio Malingri che Giovanni Soldini ne conoscono bene il fascino. Quando uno parte con una barca a vela in mezzo al mare per tanti giorni e deve fare un lungo percorso, tendenzialmente è come se facesse un po' un patto con la barca e diventa strumento della barca. La barca è un tuo strumento, ma tu sei lo strumento anche suo per arrivare poi alla fine alla destinazione. E questo ti porta a uscire proprio dai parametri normali del tempo. Ti facilita, come dire, l'attenzione verso il presente, la capacità di godersi anche il presente e di viversi in una dimensione molto più nel presente, dove in qualche modo il futuro non è così incombente, non è neanche così importante. Per Malingri, invece, la navigazione in solitaria è una cosa meravigliosa, cui manca solo la possibilità di condividere le emozioni del momento. La cosa che mi succede sempre è vivere delle cose fantastiche, no? E girarmi non posso dirlo a nessuno. Ed è un dolore incredibile, cioè tu vivi, non so, l'Oceano Pacifico del Sud, terra più vicina all'Antartide, onde 15-20 metri, giornata di sole, onda, parete verticale più alta di questo studio qua e due delfini artici che vengono fuori dall'onda così. Tu ti giri, oh, hai visto? Non c'è nessuno. Vittorio e Giovanni, due amici che insieme hanno maturato la grande passione della vela, superano il fascino delle imprese in solitaria e decidono di regatare insieme. La fortuna sarà dalla loro parte, concedendo loro numerose vittorie. Solo in un paio di occasioni subiranno il fallimento, in due gloriose traversate per la Transat Jacques Fabre sul trimarano Tim. La prima volta nel 2003 sono costretti al ritiro per rottura del timone dopo un'ottima partenza e 3 giorni in prima posizione. La seconda volta nel 2005 per ribaltamento dello scafo fanno naufragio e, come abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata, vengono salvati dalla petroliera Cape Bari. Il cerchio si chiude al largo del Senegal in un caldo 14 novembre 2005. Sotto la coperta della barca, in mezzo all'oceano, i due uomini sanno che la loro amicizia non può ricevere viatico migliore. La condivisione di tanti momenti di felicità pura, semplicemente perché lo scafo prende bene l'onda, o lo spinnaker è gonfio di vento, o perché hanno fatto una buona partenza rispetto alle centinaia di partecipanti di una regata internazionale, tutto è lì a testimoniare che la scelta di vivere il mare ogni giorno della propria vita, senza limiti, è esattamente quello che volevano per loro stessi. Ma c'è qualcos'altro che lega profondamente Giovanni Soldini e Vittorio Malingri, che hanno imparato sul mare e grazie al mare. Una concezione profondamente ecologica e rispettosa del mondo. Una barca è un piccolo mondo. Subito si creano esattamente gli stessi problemi, le stesse problematiche che poi si creano nel mondo intero, no? Per cui la prima cosa che impari su una barca è che le risorse sono finite, quindi l'energia è un problema che va risolto, la quantità di cibo è un problema che va risolto, la quantità d'acqua dolce è un problema che va risolto e gestito, e alla fine la maniera migliore per risolvere e gestire questi problemi è essere molto attenti a quello che si consuma. Soldini, come quando è in mare, tende all'autosufficienza. Si è costruita una casa circondata da ulivi, con l'erba brucata da 2 pecore e i pannelli solari per l'acqua calda e l'elettricità. Ci vive con la seconda moglie e i 4 figli. Se i popoli dei paesi sviluppati, quali sono tra virgolette gli europei e gli anglosassoni, non sono loro a capire queste cose alla svelta e a dare il buon esempio, sarà molto molto molto difficile per le nuove generazioni poter vivere una vita decente su questo pianeta, anche perché oltre al problema dei consumi, dell'opulenza e dello sviluppo, c'è il problema della crescita demografica. Il mondo non può pensare di svilupparsi come si è sviluppato nei paesi occidentali negli ultimi 40 anni. Anche Malingri, nelle sue brevi soste fra una partenza e l'altra, vive in campagna vicino a Gubbio, anche lui cercando di distaccarsi da questa frenesia del possesso e dell'apparenza. Gente che fa fatica a arrivare a fine mese, come sono cose ovvie che sto dicendo, le conoscete tutti. Col figlio con l'iPhone, capito? Allora c'è qualcosa che non va, capisci? Cioè, mi chiedo, ma lì dentro si pensa che la felicità sia il gadget o la felicità sia parlarsi, stare bene insieme? Di se stesso, Vittorio dice di essere puro istinto, una specie di animale, e che il suo istinto gli ha solo e sempre detto vai. E come abbiamo già sentito, la filosofia che ha imparato grazie al padre Franco è che non esistono limiti nella vita. Non esistono sogni irrealizzabili. Praticamente cos'è? Io chi sono? Io sono uno che parte, va oltre l'orizzonte, sfida la natura, raggiunge i suoi sogni soprattutto, no? Perché io sognavo da bambino e grazie a mio padre che mi ha dato la possibilità, insegnandomi a tante cose, alla libertà che c'era in casa mia, li ho raggiunti, no? Ecco, per esempio, vedo che questa cosa qua tanti la perdono di vista. Giovanni e Vittorio sono riusciti in tanti anni a non perdere di vista il loro sogno. E dopo anni di regate in solitaria, di giri del mondo e di traversate atlantiche, hanno deciso anche di comprare una barca in comune, la Elmo's Fire, un catch di 22 metri progettato negli anni 60, per vivere il mare con figli e amici. Con Elmo's Fire, i due velisti sono tornati a organizzare charter, come facevano nei Caraibi. Ma il desiderio di partire per nuove regate non li ha ancora abbandonati. Vittorio ha appena realizzato il record di traversata atlantica da Dakar alla Guadalupe, su un minuscolo catamarano di appena 6 metri, il Royal Oak, quasi un pattino, come lo chiama lui. E invece di poco tempo fa, la notizia che Giovanni sta cercando di organizzare, per il 2011, la sfida italiana alla Volvo Ocean Race, l'erede della leggendaria Whitbread, portata a termine nel 73 da Franco e Doi Malingri. Al timone di una meravigliosa barca di John Elkann, il nipote di Gianni Agnelli e attuale presidente della Fiat. Fino ad ora abbiamo incontrato tante barche in questa storia. Sostantivo femminile, la barca ha lo scafo sinuoso, dal bacino largo. Le lunghe vele bianche la vestono con cura, con eleganza. Di barche così è facile innamorarsi e quando succede è per tutta la vita. Vittorio Malingri e Giovanni Soldini ne hanno avute tante, ma ognuna di esse ha significato un momento importante della loro vita, li ha accompagnati verso una nuova tappa, non solo nella conoscenza del mare, ma verso una conoscenza di se stessi che ancora non si è conclusa. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.